La contessa Laura Bacigalupi, ligure di origine, era imparentata con i Baldovin de Strazzi, proprietari di una bella villa non lontano da Villa Belluno, si perdoni l'involontario bisticcio. Ricchissima, si poteva permettere il lusso di viaggiare quasi in continuazione. L'incontro con i lupi lo si apprende da una sua lettera, conservata appunto nell'archivio dei conti Baldovin, avvenne in Polonia, mentre a bordo della sua carrozza padronale, accompagnata dalla figlia Morzia, la Bacigalupi, da Breslavia, si dirigeva a Lodz.